Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. L'uomo di cui raccontiamo la storia oggi ha un cognome che rappresenta il colosso dell'intrattenimento e dei media. È un gigante per il quale lavorano centinaia di migliaia di persone, quotato da 25 anni a Wall Street, nato dal nulla se non dal suo genio creativo, il genio di un ragazzo di Chicago. È un uomo che non ha mai dimenticato la sua infanzia difficile, che però è riuscito a farla diventare il motore del suo successo grazie alla sua volontà di ferro, al suo talento. La faccia e il nome di questo personaggio emergono all'attenzione del pubblico da molto lontano. Il 18 novembre 1928, lui ha 27 anni, al Colony Theatre di New York c'è in programma un film di guerra. Al termine di questo film viene proiettato un cortometraggio a cartoni animati con la novità del sonoro. Il titolo è Steamboat Willie. Il protagonista è uno strano topo che fischietta mentre pilota un battello a vapore. All'indomani della proiezione tutti i giornali riportano la notizia in prima pagina con il titolo Mickey Mouse Speaks. Topolino parla e di fianco agli articoli la foto di un giovane uomo con i baffetti e la faccia sorridente. È Walt Elias Disney. Per molti biografi la vera storia di Walt Disney inizia quel giorno con la scoperta da parte del pubblico di Mickey Mouse. È l'inizio di una vicenda che è molto di più dell'epopea industriale americana. Sono i primi passi della costruzione di un pezzo importante del cosiddetto immaginario collettivo, le suggestioni culturali che miliardi di persone oggi condividono in tutto il mondo. La storia di Walt Elias Disney, come per tutti, inizia ovviamente prima a Chicago, il 5 dicembre 1901, il giorno della sua nascita. Lui è il quarto figlio di Elias Disney e Flora Cole. Due anni dopo nascerà anche una sorella. Walt non cresce a Chicago perché il padre è il classico imprenditore che apre e chiude attività alla rincorsa del sogno americano, attività che lo fanno spostare con la famiglia di città in città. Walt e i fratelli crescono in campagna, dove il padre ha avviato una fattoria. Poi dura poco, nel 1909, quindi quando lui ha 8 anni, la famiglia si trasferisce a Kansas City. Il padre Elias ha ottenuto un appalto per la consegna dei giornali. Questi giornali devono consegnare il piccolo Walt, che ha 8 anni, il fratello maggiore Roy, e i due bambini si alzano a notte fonda per fare le consegne prima di andare a scuola. L'infanzia spensierata e idilliaca che Walt Disney racconterà in tanti film e cartoni non è certo il suo ricordo personale, perché la sua realtà da piccolo è molto dura. Nel film Saving Mr. Banks, un Walt Disney interpretato da Tom Hanks la ricorda così. Io avevo 8 anni, appena 8 anni allora, e come ho detto gli inverni erano rigidi. E il vecchio Elias non comprava scarpe nuove finché quelle vecchie non erano consunte. E noi avanzavamo nella neve come se fosse melassa. Il freddo e l'umido penetravano nei vestiti e nelle scarpe. E la pelle del viso si squamava. A volte io mi ridestavo affondato in quella neve di soprassalto. Come da uno svenimento, o chissà, non lo so. Ed era già ora di andare a scuola. Io ero troppo infreddolito per capire le equazioni e il resto. Poi di nuovo nella neve per tornare a casa prima che facesse buio. La mamma ci faceva cenare. E poi si doveva tornare subito fuori a fare il giro per l'edizione della sera. È raro che ci sia un giorno in cui io non ripensi a quel bambino di 8 anni che consegna giornali e giornali nella neve e al vecchio Elias Disney con la cinghia stretta in pugno. Le storie di tutti i grandi partono da difficoltà. Le difficoltà dell'infanzia sono un motore nell'età adulta. Intanto arriviamo al 1917. Lui ha 16 anni e in Europa c'è la prima guerra mondiale. Elias, il padre, torna a Chicago per una ennesima idea vincente, una ditta di bevande gassate. Walt però rimane a Kansas City, trova lavoro col fratello come venditore sui treni, quelli che portano i viaggiatori bibite e panini. Insomma, lui si dà da fare soprattutto per svincolarsi dal padre e dal suo sistema di vita. Lascia la scuola a 16 anni, si offre volontario come autista di ambulanze impegnate nel conflitto bellico. Per farlo deve falsificare i suoi dati di nascita. Fino al 19 è in Francia con la Croce Rossa. Alla fine della guerra si ricongiunge col fratello Roy, che sarà una figura fondamentale per Walt nel corso degli anni che arriveranno. Disney è un ragazzo ambizioso e pieno di energia, di inventiva. Fa un primo lavoro di un certo livello, è in un'agenzia pubblicitaria, guadagna $50 al mese. È un lavoro non molto importante, però all'interno di questo lavoro c'è un incontro proprio in quell'agenzia con un suo coetaneo. È un ragazzo che ha un grande talento nell'animazione, si chiama Ab Iwerks. Con lui all'inizio del 1920 crea la società Iwerks Disney Commercial Artists. La prima commessa importante è sulle animazioni pubblicitarie da proiettare nei cinema. Fino allora questi lavori venivano realizzati con ritagli di carta. Lui, in un laboratorio ricavato da un garage, comincia a sperimentare con una vecchia cinepresa presa in prestito. Il risultato è subito di qualità superiore, perché il suo talento sta già prendendo forma. E con l'apporto fondamentale di Iwerks e con i soldi procurati dal fratello Roy, comincia a produrre filmati da vendere. Disney è ossessionato, vuole conquistare il successo nel mondo dell'animazione, passa tutto il tempo libero nei cinema a guardare i lavori dei più famosi animatori dell'epoca. In quegli anni va per la maggiore Felix the Cat, lui prende spunto, crea il coniglio Oswald, considerato un po' il vero antenato di Topolino, sarà il primo passo sulla strada del successo, tanto agognato. Il falco e il gabbiano. Siamo negli anni 20 e Walt Disney vede i primi segni del successo. Niente di spettacolare, i tempi del mito non sono ancora arrivati, sono lontani, ma le sue prime animazioni insieme al disegnatore Ab Iwerks sono molto avanti rispetto alla concorrenza. Il suo primo personaggio di successo, il coniglio Oswald, cattura l'attenzione di un grande distributore, la Universal Pictures, che gli commissiona 26 episodi. Disney mette su una squadra di disegnatori per onorare il contratto. Però non è il capo che tutti vorrebbero, il suo atteggiamento è informale, un po' paternalistico nel modo di fare. La verità è che mette sotto pressione tremendamente le persone con le quali lavora. Lui deve realizzare gli episodi di Oswald commissionati dalla Universal, costringe i disegnatori a orari mostruosi anche nel fine settimana, e poi li paga poco, anche se lui comincia a guadagnare bene, non dà loro alcuna visibilità. L'unico nome che emerge è il suo, Walt Disney. Così lo ricorda Floyd Norman, uno dei disegnatori. Ogni volta che Walt camminava lungo il corridoio, tossiva rumorosamente. Naturalmente percepivi la tosse di Walt come quella di un fumatore, ma non necessariamente la sua era una tosse dovuta al fumo. Era in realtà un avvertimento, così che noi sapessimo che lui era in zona. Beh, è una bella idea. Quanti mariti sarebbe meglio che tossissero al telefono con la moglie prima di arrivare improvvisamente a casa. Comunque, frustrazione dei collaboratori a parte, questo è un buon periodo per Walt. Al suo fianco c'è sempre il fratello Roy, l'anima finanziaria dell'azienda. Arriva anche l'amore con una sua dipendente che si chiama Lillian Bounce. Nel 25 i fratelli si sposano entrambi. Roy sposa Edna e Walt sposa Lillian. E da quel momento lei sarà una presenza discreta e silenziosa al suo fianco. Intanto c'è il rapporto con Roy, che è particolare, è strettissimo, però la grande personalità di Walt è soverchiante. C'è un episodio significativo, perché in quegli anni decide di cambiare il nome della società. Lo ricorda lo storico della cultura americana Stephen Woods. Walt andò da Roy e gli disse: ho preso una decisione, e questa decisione è che da adesso questa sarà la Walt Disney Studio e non più la Brother Disney Studio. Walt Disney era convinto che il motore del successo era la sua visione della creatività e dell'intrattenimento, e che quindi su questa bisognava puntare. Nel 27 alla Universal c'è un cambio di guida che si ripercuoterà sull'attività di Disney, perché la proprietaria precedente dello studio, Margaret Winkler, si sposa, passa il controllo a suo marito Charles Mintz. Bene, questo cambia tutto. Lei era stata benevola con Disney, il marito no, vuole tagliare i costi del contratto per la produzione di Oswald, e Walt Disney non vuole, e inizia una guerra. Cosa fa questo Charles Mintz? Ruba i disegnatori a Walt Disney. In pratica comincia a produrre i cartoni di Disney senza Disney. Quasi tutti mollano Walt Disney, insomma è la prima grande delusione, è un tradimento grosso che lo spingerà a difendere sempre con durezza i diritti legali delle proprie creazioni. Non è un tipo da abbattersi, lui studia subito come tirarsi fuori dalla situazione. Disney cerca la sua rivincita, torna con Ivex al tavolo da disegno per creare un nuovo personaggio, parte dal coniglio Oswald, poi allunga il muso, accorcia le orecchie, cambia animale, alla fine arriva un topo. Vorrebbe chiamarlo Mortimer, ma la moglie gli consiglia, giustamente direi, un nome più simpatico, e si opta per Mickey, e realizza con la sua nuova società, la Walt Disney Production, un paio di cartoni con Topolino come protagonista. L'aereo impazzito e Topolino Gaucho sono animazioni mute. Il sonoro arriverà di lì a poco, arriverà nel 27 col primo film parlante della Warner, il cantante di jazz. Ma l'aspirazione decisiva di Disney è questa: è realizzare con Mickey Mouse il primo cartone sonoro, Steamboat Willie. E c'è un problema: la Disney Brothers non ha un dollaro in cassa. Walt deve vendere anche l'auto. Elabora il carattere, le gag del topo, mentre Iwerks passa 20 ore su 24 a disegnare al ritmo di 700 tavole al giorno. Roy fa il giro di tutti i distributori, il primo giro è infruttuoso, l'unico disponibile è un uomo d'affari che ha un po' il pelo sullo stomaco, si chiama Pat Powers, e compra di contrabbando un sistema di sincronizzazione sonora, il Cinephone, e glielo fornisce. Il 18 novembre del 1928 al Colony Theater di New York il cartone viene proiettato in coda a un film di guerra. La gente in sala è sorpresa, ride, alla fine del cortometraggio chiede a gran voce al proiezionista di ripartire dall'inizio. Insomma, Walt Disney trionfa al primo colpo, diventa con Mickey Mouse la prima star internazionale del mondo dell'animazione. E Mickey Mouse ovviamente è un personaggio a cui lui sarà sempre legatissimo, userà la sua stessa voce in tutte le produzioni successive, con questo topo che diventa famoso dappertutto. Hey Poodle, here she comes! Il lavoro lo assorbe al 100%, lui è ossessionato, partecipa a ogni fase del processo di produzione di tutti i cartoni di Topolino. Fuma una sigaretta dietro l'altra, rimane in ufficio fino alle 2 di notte. E intanto nella vita privata cerca di avere figli con Lillian, ne vorrebbe tanti, ma Lillian resta incinta e poi ha degli aborti spontanei. Questo è un colpo durissimo per Disney, che è già sull'orlo della depressione, lo racconterà lui stesso in una sua rara intervista. Nel 1931 ho avuto un esaurimento da incubo. Ero distrutto. Era tutto soldi, soldi, soldi e costi. Ma i costi non si riuscivano a coprire. Erano sempre molto più alti di quanto noi potessimo pensare di guadagnare con i film. E io ho avuto un esaurimento nervoso. Ho ricevuto la sua notizia, ma ho dovuto dire che non potevo parlare al telefono. E sono scoppiato a piangere. È l'ultima piccola cosa che ho fatto. È andata così. E Disney si prende la prima vacanza della sua vita, torna rinfrancato, cambia un po' il suo stile di vita, trova nuova energia, però non cambia questo suo carattere così decisionista. È sempre un uomo che non delega nulla, vuole che tutti in azienda lo chiamino semplicemente Walt, ma questa è solo l'apparenza, perché lui è un boss, è un duro, non ama essere contraddetto, decide tutto lui e solo lui, perché ha capito la direzione da dare al suo genio e la persegue senza mediazioni e senza compromessi. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Walt Disney, un uomo che ha regalato sogni ai bambini e agli adulti di tante generazioni, con i suoi cartoni animati, con i personaggi che ha creato, e poi dopo con i parchi a tema che sono sparsi in mezzo mondo per celebrare il suo genio, il suo talento. È un creatore di sogni che ha voluto trasmettere di sé un'immagine diversa dal suo vero carattere. In pubblico è sempre stato sorridente, informale, poi nella realtà è stata una persona con tanti conflitti irrisolti, e pensate già anche un pochino ai suoi personaggi. Fateci caso, non ci sono mai genitori, e quando i genitori ci sono scompaiono, vengono ammazzati, il Re Leone, Bambi, è tutto un mondo fatto di zii e di nipoti. Comunque, tutta questa sua personalità complessa poi sul lavoro si traduce in un atteggiamento forte, determinato, duro, dispotico verso i suoi dipendenti. E dopo il successo di Mickey Mouse negli anni 30, lui vuole altre sfide. Nella vita personale ha dei problemi legati all'impossibilità di avere dei figli. Nel 33 e nel 36 adotterà due bambine alle quali si dedicherà per tutta la vita. E lui non ha ancora 40 anni, è diventato una star. Ha costruito un'azienda che lui vede come una grande famiglia, purché il padre padrone sia lui. È una comunità dove si passa assieme anche il tempo libero, tutti lo chiamano Walt, è un uomo di successo, è capace di fare soldi nell'America provata dalla Grande Depressione, ma non è mai soddisfatto. Lui vuole competere con i film con gli attori in carne e ossa, vuole dei lungometraggi a cartoni animati, ha fatto ridere il pubblico con Topolino, adesso vuole farlo piangere. La sfida si chiama Biancaneve. Vecchio, servo delle mie brame, chi ora è la più bella del reame? Al di là dei sette monti strani, nel bosco di così cos'è, nella casetta dei sette nani, ora Biancaneve è più bella di te. Eh sì, Biancaneve, i sette nani, è una sfida folle, almeno così pensano tutti. Il fratello e la moglie cercano di dissuaderlo, e il mondo di Hollywood lo prende in giro, tutti scommettono che fallirà inseguendo questo progetto. Walt intanto sperimenta la cinepresa a piani multipli, conduce studi con i suoi disegnatori per rendere realistici i movimenti dei personaggi. La produzione dura 2 anni e prosciuga tutte le risorse dello studio. Disney è indebitato con le banche. E poi arriva la prima, il 21 dicembre del 1937, al Carthay Circle Theater di Hollywood. Blasé Hollywood, accustomed to gala openings, turns out for the most spectacular of them all. The world premiere of the $1.5 million fairy tale fantasy, Snow White and the Seven Dwarfs. Alla fine della proiezione il pubblico si alza in piedi in una standing ovation. È un successo enorme. È il capolavoro di Walt Disney. Biancaneve incassa 8 milioni di dollari dell'epoca, sarebbero almeno un centinaio oggi. I pregiudizi sono forti, il film non entra nella programmazione dei cinema importanti, ma non importa, con i soldi incassati Disney costruisce a Burbank un enorme complesso, è una specie di campus, e vuole ospitare i Walt Disney Studios. Nei 2 anni successivi usciranno Pinocchio e Fantasia, e entrambi sono deludenti al botteghino, e i costi invece erano da record. In particolare Fantasia, che oggi è considerato un vero e proprio capolavoro, un capostipite in un certo cinema di animazione, non convince né il pubblico né la critica. Disney è frustrato, sente di non godere della giusta considerazione, il successo non basta, c'è un pregiudizio di fondo verso le sue produzioni. Lui non è riuscito a farsi ritenere alla pari dei grandi registi, quelli dei film normali. E intanto arriva la Seconda Guerra Mondiale, il Dipartimento di Stato, guidato da Nelson Rockefeller, gli chiede di fare un viaggio promozionale in nome degli Stati Uniti in America Latina per una specie di propaganda politica in chiave antinazista. Disney accetta, e anche se è riluttante, nel 1941 partecipa allo sforzo bellico insieme alla Lockheed Martin, realizza un cartone animato istruttivo per mostrare agli addetti della fabbrica come eseguire alcune operazioni meccaniche sugli aerei. aerei. Naturalmente non è un momento di grande business. Disney produce un film a basso costo, Dumbo, per far tornare i dollari nelle casse della società, ma si scontra con uno dei suoi momenti più duri. Sono le rivendicazioni dei dipendenti della Disney, che vogliono visibilità, più soldi, migliori condizioni di lavoro. Insomma, diventa uno sciopero molto rumoroso, con i picchetti davanti agli ingressi dello studio a Burbank. Walt, nella gestione di questo suo studio, si dice fosse una persona veramente difficile, lunatico, dispotico, portato a licenziare chiunque su due piedi per motivi anche marginali. Non si sa se sia vero, però Disney sicuramente sottovaluta le rivendicazioni, non vuole che i sindacati entrino nella sua azienda, spesso perde la calma in pubblico, insomma incrina quella sua immagine quasi paterna che vorrebbe trasmettere. Ecco il ricordo dello scrittore Richard Schickel. Non credo che avesse totalmente i piedi per terra. Credo che volesse essere quello che la sua immagine rappresentava. Credo volesse essere amichevole, buono, affabile, ma non lo era. I suoi personaggi erano ragazzi buoni e amorevoli, ma lui era un ragazzo fortemente determinato e non credo che abbia mai risolto i suoi conflitti. A un certo punto dello sciopero, Walt Disney se ne va, parte per un tour di due mesi, non regge la pressione. È una fortuna, perché la trattativa viene condotta da Roy, dal fratello, che scende a patti con gli scioperanti, abbandona le posizioni dure di Walt. E la sua idea, però, l'idea di Walt di uno studio come una grande famiglia, va in frantumi per sempre. Però non sono finite le delusioni. Nel 1946 esce un altro grande esperimento di Disney. È un film con personaggi in carne e ossa che interagiscono con i cartoni. Pensate la genialità, pensate quanti film di successo poi hanno seguito questo stilema. Si chiama Song of the South, tradotto in Italia con I racconti dello zio Tom. È ambientato nel sud schiavista, racconta in maniera un po' troppo idilliaca forse i rapporti tra gli schiavi e i padroni, però è un film che oggi è molto apprezzato per la tecnica, la narrazione e, come spesso accade nella storia, la sua uscita viene contestato, viene tacciato di revisionismo storico. Ci sono proteste davanti ai cinema, manifestazioni dei movimenti per i diritti civili e in realtà il protagonista, l'attore nero Jane Basket, vince l'Oscar in un periodo in cui ai neri non capitava molto spesso. Disney però non la prende bene, lo ricorda il suo biografo Neil Gabler. Walt Disney è abbattuto, dice: ho capito che non farò mai niente di meglio di Biancaneve. Quando si pensa a Walt Disney lo si immagina come il ragazzo che guarda sempre a nuovi orizzonti, il ragazzo che prova sempre ad aprire nuove strade, il ragazzo che ha vissuto per la perfezione. E poi lui riesce a dire, non solo a se stesso ma pubblicamente: non farò mai niente di meglio di Biancaneve. Vuoi sentire un uomo in crisi? Questo è un uomo in crisi. That's a man in crisis. Questo è il periodo forse più buio di Disney e i suoi detrattori lo hanno sottolineato in molte biografie scandalistiche. Nell'immediato dopoguerra, nel 1947, lui addirittura ha chiamato a deporre davanti alla commissione per le attività non americane e denuncia alcuni suoi dipendenti come simpatizzanti comunisti. Per molti è la sua vendetta per lo sciopero del 1941. Negli anni 90 addirittura una biografia non autorizzata accuserà Disney di razzismo, di antisemitismo. La caccia alle streghe si capovolge in quegli anni, però le accuse vengono smentite da decine di collaboratori e di testimoni. La fine degli anni 40 vede l'uscita di Alice nel Paese delle Meraviglie e delle Avventure di Pinocchio, poi nel 50 Cenerentola, che ridarà un grande successo economico, arriverà secondo solo dietro a Biancaneve, diciamo nella hit parade dei successi economici di Walt Disney. Poi nel 50 c'è l'ennesima sfida, anche in questo caso viene osteggiata dall'establishment e dalle banche, perché esce L'Isola del Tesoro dal romanzo di Stevenson. Per la prima volta è un film solo con attori veri, e ha ragione lui, il film è un successo. Ormai i Disney Studios stanno andando avanti da soli, Walt Disney rallenta la presa perché si dedica a altre passioni che lo porteranno a un altro colpo d'ala della sua vita. È un pensiero che ha dagli anni 40, quello di creare un parco di divertimenti per i suoi dipendenti. Nel 53 crea una società proprio per questo scopo, la WED, di nuovo contro il parere di tutti e in prima fila naturalmente le banche. E per ottenere il denaro necessario per realizzare questo progetto monumentale vende ai network televisivi uno show settimanale, storie in qualche modo collegate a sezioni del parco, come ad esempio Frontierland, l'area dedicata al West americano, e poi realizza una serie di puntate su Davy Crockett e produce intanto questa Frontierland. E insomma è veramente un genio, perché comincia a vendere dei programmi nei quali sta promuovendo quello che farà, cioè il parco, quindi guadagna dei soldi e contemporaneamente sta lanciando il suo sogno, il suo grande progetto. E lui sovraintende personalmente alla costruzione del parco, e ci immaginiamo come, con ordini perentori, alberi spostati, lavoratori costretti a montare e smontare strutture fino a che lui non è convinto di una attrazione, e nelle settimane finali triplica la forza lavoro, 2500 persone che lavorano 16 ore al giorno. Alcuni operai si fanno anche male, uno è schiacciato da un enorme elefante meccanico del fiume artificiale, un altro è ferito gravemente al braccio mentre lavora al treno del parco. Però il 17 luglio del 1955 a Anaheim in California migliaia di persone sono assiepate all'ingresso del parco. Le telecamere dei maggiori network trasmettono la diretta. Disneyland sta aprendo i battenti. American Motors, builders of Nash Automobiles, Kelvinator Home Appliances and Hudson Motor Cars present Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star. Un bel colpo, ma intanto gli studi stanno realizzando pellicole come Lilli e il vagabondo, La carica dei 101, La bella addormentata nel bosco e poi La spada nella roccia. Disneyland macina milioni di dollari, è immensamente ricco e finalmente libero dalle odiate banche. Nel 64 esce quello che è considerato l'ultimo capolavoro di Walt Disney, dopo un corteggiamento durato 20 anni, convince Pamela Lyndon Travers a cedergli i diritti per il cinema del suo libro Mary Poppins, cartoni animati e persone reali che cantano e ballano in un mix perfetto. Come sei riuscito ad accomodarlo? Due penny ti fanno comprare carta e spago e puoi fabbricare il tuo paio di ali per poi volar dello spazio padron col tuo bell'aquilone. Walt Elias Disney, il creatore di sogni, muore il 15 dicembre del 1966, 10 giorni dopo aver compiuto 65 anni. Muore per un cancro ai polmoni. L'allora governatore della California, il futuro presidente Ronald Reagan, dirà: da oggi il mondo è più povero. In Italia il settimanale Epoca mette in copertina un Mickey Mouse in lacrime. Una vita piena di colpi d'ala, piena di scelte controcorrente, piena di rigori tirati in prima persona, magari proprio spostando anche in malo modo quelli che il rigore lo volevano tirare con te. Comunque Walt Disney è uno che ce l'ha fatta, grazie al suo carattere difficile, ma anche e soprattutto alla sua volontà, grazie anche forse al fatto di essersi curato poco del parere degli altri, ha segnato il cammino per un cinema di evasione, soprattutto per i bambini, ma con un occhio di riguardo verso gli adulti. Bisogna provare nella vita a volare alto, come i protagonisti delle storie che noi raccontiamo, Il Falco e il Gabbiano. Sono storie di chi è caduto, di chi si è rialzato, di chi è riuscito e di chi ci ha provato. Se volete mandare dei commenti commenti o segnalare altre vite sulle quali puntare i riflettori, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarci sui nostri social o sui miei social, insomma lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.